Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 10 febbraio, bentornati a tutti i nostri teleradio ascoltatori, sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV. Il nostro programma che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko e Lepida TV canale 118 e che fa da ponte tra carcere e città. E qui con voi ci siamo Antonella Cortese e io. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Posso dire una cosa Caterina? Certo. Oggi è la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Non ne parliamo, però vogliamo che lo sappiate tutti. Grazie, è vero, e ci piace ricordare ogni tanto le giornate e raccontarvele. Oggi non è il caso perché abbiamo una notizia che riguarda un pochino più da vicino i diritti delle persone detenute. Leggo questa notizia dal Manifesto a firma di Eleonora Martini: vietato il carcere ai malati psichici, la CEDU condanna l'Italia. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, ha condannato il nostro paese per aver trattenuto illecitamente per 2 anni in carcere un cittadino italiano con problemi psichici. Si tratta di Giacomo Seidussi, classe 1994, sofferente di disturbo della persona e di disturbo bipolare, accusato di molestie nei confronti della sua ex fidanzata e resistenza a pubblico ufficiale per percosse e lesioni. Il GIP di Roma aveva disposto già nel gennaio del 2019 il suo immediato collocamento per 1 anno in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette REMS, però così non è stato. Infatti da quello che ci dici sembra proprio che questo posto per lui non sia stato trovato. No, infatti il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP non aveva trovato posto nelle REMS, che sono di competenza, lo ricordiamo, del Ministero della Salute. Eppure, come sottolinea la Corte di Strasburgo, sì, non ha beneficiato di alcuna strategia terapeutica globale per la gestione della sua patologia, e questo in un contesto caratterizzato da cattive condizioni carcerarie. Lui era detenuto al carcere di Rebibbia. Difatti, qualche giorno fa, proprio mentre il nostro garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, denunciava in Italia nelle carceri un suicidio ogni 3 giorni dall'inizio del 2022 e chiedeva di ridurre le tensioni nelle carceri e di ridefinire un nuovo modello detentivo, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 18, ha dichiarato illegittima la censura sulla corrispondenza tra detenuti sottoposti al 41 bis col proprio avvocato difensore. E questo significa che, secondo la Consulta, il diritto alla difesa può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità, purché non sia compromessa l'effettività della difesa. E quindi una sentenza che ci ricorda ancora una volta quanto sia deficitaria la salvaguardia dei diritti dei detenuti nelle carceri italiane. Caterina, già ieri avevamo parlato delle REMS con l'ASL di Bologna, e adesso però ti volevo chiedere una cosa: qual è il punto di vista di Antigone su questo? Perché tra le nostre collaborazioni, per fortuna, c'è anche Antigone, che addirittura ha una rubrica con noi. Il loro punto di vista qual è? Ecco, secondo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, la condanna della CEDU per trattamento inumano e degradante dimostra un cortocircuito istituzionale nel nostro paese che non è accettabile. Ed è solo uno dei tanti casi, scrive Gonnella, simili, pendenti, che riguardano la questione delle persone con patologie psichiatriche nel circuito penale. E a giorni sul tema ci si aspetta anche la sentenza della Corte Costituzionale. Ma è interessante anche quello che dice l'organismo del Consiglio d'Europa nel caso appunto di Giacomo Seidussi, al tempo detenuto nel carcere romano di Rebibbia. Dice: l'Italia ha violato gli articoli numero 3, trattamenti inumani e degradanti, 5,1 sulla detenzione illegittima, il 6 sul diritto a un processo equo e l'articolo 34 sul diritto a di ricorso individuale. Quindi una quantità di violazioni incredibile. Era infatti dovere del governo italiano trovare un posto nelle REMS o un'altra soluzione adeguata, come peraltro la Corte aveva espressamente indicato nel provvedimento provvisorio emesso proprio dalla Corte di Strasburgo il 7 aprile del 2020. Questa è una storia che è stata denunciata, speriamo si concluderà nel modo migliore nei riguardi per l'appunto di questa persona. Ma è il momento di un brano musicale, sempre Ear Hustle dalle carceri californiane di San Quentin con Lucky Gay. A tra pochissimo. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV, abbiamo parlato di diritti e anche tu Antonella hai una storia che riguarda tutto questo, vero? Sì, è la storia di Erwin Bajrami, attivista per i diritti delle persone LGBTQ+, e della comunità Rom. Una storia molto strana perché Erwin è gay, Rom è scuro di pelle, è uno dei pochi in Italia che ha trovato il coraggio per fare coming out, di dichiararlo pubblicamente, ha 30 anni, è un attivista, come vi dicevo, per i diritti delle persone LGBTQ+, e della comunità Rom. Ma perché è una storia importante? Perché lui vive una doppia esclusione, di cui appunto vi racconterò. Intanto, Caterina, ti dico che è arrivato dal Kosovo quando aveva solo 8 anni, e oggi vive a Bergamo e vive appunto, come ti dicevo, questa doppia discriminazione. Dalla famiglia d'origine viene ostracizzato perché gay, ma anche dalla comunità LGBT+, viene discriminato in quanto Rom. Pensa un po' che situazione. Certo che questa settimana la città di Bergamo ci fa esplodere dei segreti, perché tra la cantante che Lanci che abita a Bergamo, lui che abita a Bergamo, raccontaci la sua storia. Sì, Erwin Bajrami è nato il 10 dicembre del 1991 a Pristina, la capitale del Kosovo, mamma ortodossa, papà musulmano, un fratello e una sorella, la famiglia viveva in una casa di proprietà, aveva una vita agiata. Quando scoppia la guerra, con la famiglia si rifugia prima in Serbia, dove vivono i nonni materni, poi in Italia. All'inizio lui, sua madre e sua sorella vivono in una casa famiglia, mentre il padre e il fratello, che allora aveva solo 14 anni, dormono in una struttura che resta aperta solo di notte e per andare avanti facevano l'elemosina. La famiglia di Ervin, anche se non è praticante, è comunque legata alle tradizioni ed è abituata a un percorso di vita in cui ci si sposa molto giovane e si fanno tanti figli, è un poco come nella loro tradizione. Per questo per Ervin è stato ancora più difficile fare coming out. Lui racconta che a 18 anni i suoi genitori si chiedevano che cosa avessero sbagliato nei suoi confronti, perché era diventata la vergogna della famiglia. E dopo anni ha capito di non essere l'unico in questa situazione e quindi ha anche capito che la vergogna non era lui, ma l'ignoranza che domina ancora la comunità Rom. E dopo il coming out, Ervin scappa di casa, va a vivere da sua zia e poi si riconcilia con i genitori e decide di formarli, cioè di spiegargli che cosa significhi veramente essere gay. E voleva fargli capire che non era una malattia, che non c'era niente di strano e quindi dovevano accettarlo per quello che era. E nonostante Ervin sia un attivista impegnato nella lotta per i diritti delle persone LGBTQ+, capita che si senta ancora il diverso tra i diversi. Pensa, Caterina, che un giorno un ragazzo gay gli ha detto i Rom dovrebbero tutti bruciare e lui giustamente ha risposto: scusami, ma tu non lo sai che io sono Rom? E lui ha dato la risposta classica che si dà in queste occasioni: vabbè, ma tu sei diverso. E altri gli hanno detto: non basta essere gay, tu sei anche Rom, i Rom rubano, è inutile che tu mi dica di no. E lui giustamente dice: non si rendono conto che le parole alzano dei muri enormi e quelli che noi vogliamo combattere. Quindi è un po', diciamo, un controsenso che ci sia questa discriminazione. Ervin ovviamente ha continuato a lottare per affermare la sua doppia identità, anche se spesso si è sentito molto solo, perché diceva giustamente: se la mia famiglia mi discrimina, se la mia comunità mi discrimina, ma io chi sono? È proprio una perdita di identità. Quindi io ci leggo tanta ricchezza, perché per me la diversità è sempre sinonimo di ricchezza, ma in una storia di questo tipo diventa un'esclusione nella esclusione, no? Esattamente, un'esclusione nell'esclusione. Calcola che anche che c'è la questione culturale, che vede Ervin a metà tra la sua cultura d'origine, che è quella del Kosovo, e l'Italia, il paese in cui è cresciuto, e lui si sente perfettamente italiano. È arrivato qui quando era un bambino, addirittura racconta di aver visto le lire e si ricorda ancora il prezzo delle Big Bubble, per dirti, è veramente uno di noi. Eppure c'è sempre qualcuno che non perde l'occasione di fargli notare che lui veramente italiano non è. E a volte si sente anche dire: dovresti ringraziare di essere ancora qui. Ma giustamente la sua risposta è: io lavoro, pago le tasse in Italia come tutti i cittadini. Su molte questioni non ha ancora tutti i suoi diritti, ma i doveri sono identici. Infatti Ervin purtroppo non è ancora riuscito a ottenere la cittadinanza italiana e va avanti con un permesso di soggiorno per motivi familiari che rinnova ogni 2 anni. Ed è per questo che, dopo aver lavorato per più di un anno per il comune di Bergamo, non ha potuto partecipare a un concorso. Quindi insomma è un ragazzo come tutti i ragazzi che vorrebbe migliorare la sua condizione di vita. E per un periodo è stato parte del Grande Colibrì, un'associazione multiculturale che dà voce a persone che soffrono di doppia discriminazione. Adesso fa parte dell'UCRI, l'Unione delle Comunità Romane in Italia, e di Chetane, che punta al riconoscimento della minoranza linguistica, etnolinguistica e culturale nella comunità Rom. Lui giustamente dice: quello che chiediamo è il superamento dei campi, della ghettizzazione, del caporalato, la mafia di oggi. E poi conclude dicendo: facciamo formazione e informazione, la conoscenza è il primo passo per distruggere lo stereotipo. Anche noi crediamo che la conoscenza sia importante, la cultura. E adesso però passiamo alla musica. Come dicevi, Caterina, siamo a Bergamo perché Awa Fal è nata a Bergamo e ascoltiamoci Free Your Mind. Il testo dice: non ascoltare quello che la gente dice, libera la tua mente e fai quello che devi. E poi non andate via perché c'è Paolo Aleotti, giornalista responsabile di Teleradio Reporter presso il carcere di Bollate, che continua a raccontarci dei maestri del giornalismo. A dopo. Reach for your goal. Bentornato Paolo e bentornati a tutti i nostri teleradioascoltatori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Riprendiamo da ieri il filo della nostra chiacchierata sui maestri del giornalismo. E qualche giorno fa, Paolo, io ti ho chiesto proprio a bruciapelo, perdonami, quali sono stati i tuoi riferimenti più importanti, ovvero quei giornalisti che sono con il loro stile, il loro modo di fare questo mestiere, ma lasciamelo dire anche la loro grande passione, il loro amore per il giornalismo, hanno fatto la storia del giornalismo italiano. Tra questi c'è anche un girovago, che è Tiziano Terzani, fotoreporter e scrittore. Se dovessimo riassumere il suo pensiero in una massima, cosa potremmo dire? Ma che tra tante altre cose, lui che non voleva essere un profeta, fu il profeta della vita che non va vissuta inscatolata nelle piccole cellette, diceva lui, che ci preparano. Ecco, questa è stata da sempre una sua costante. Devo dire che tra i tanti che stiamo citando in questi giorni, che amo tutti, ma lui è sicuramente quello che amo di più, al quale mi sento più vicino, pur non avendolo mai conosciuto poi veramente di persona, ho conosciuto solo dopo aver fatto il documentario o durante, la moglie, la vedova, e i figli, Folco e Sasca. E, diciamo che Terzani, dopo aver studiato, letto, imparato, dopo un periodo negli Stati Uniti, decise che voleva andare a vedere com'era il mondo e soprattutto com'era quella parte del mondo verso l'Asia, dove c'erano dei regimi che secondo lui avrebbero potuto portare alla democrazia. Si propose a tante testate italiane, fu respinto da tutte, naturalmente, con la solita lungimiranza, partì lo stesso per il Vietnam con la famigliola e così, come racconta lui, ebbe la fortuna che scoppiò la guerra in Vietnam e quindi fu costretto, diciamo così, a restare lì. Perché me lo sento vicino? Perché io sono stato inviato per 15 giorni negli Stati Uniti, scoppiò la guerra del Golfo, tra virgolette ebbi a mia volta la fortuna di stare lì 10 anni. Lui restò in giro per tanto tempo e appunto fu fortunato, come dice lui, perché scoppiò la guerra. Ecco, lui ha viaggiato davvero tantissimo in questi paesi dell'est asiatico, come dicevi, per dimostrare che anche in questi paesi possono esistere semi di democrazia, ma ci è riuscito a dimostrare questa cosa? La cosa importantissima di Terzani, rispondo, però non è che non voglio rispondere alla domanda, è che lui comunque mantiene sempre fede a quello che credeva. Si vede anche nel documentario che abbiamo fatto noi su di lui, insieme a Luciano Minerva, che lui parlasse quando era in Vietnam, quando era in Svizzera, quando era a Roma, quando era ovunque, diceva sempre esattamente, tra virgolette, le stesse cose, seguiva sempre la stessa direzione. Questo però non significa che non fosse in grado di cogliere le contraddizioni. Se andava a vedere, che ne so, i Khmer Rossi, convinto che fossero una speranza per il futuro, e si accorgeva che invece facevano tantissimi errori, era il primo a sottolineare tutti gli errori. Tanto è vero che quando era in Cina, a forza di sottolineare errori, fu cacciato via dalla Cina, che per lui era però un peccato, non voleva, ha resistito tanto perché voleva comunque dimostrare che quel tipo di sistema, forse corretto un po', sarebbe stato capace di aiutare gli uomini a creare un mondo migliore. Quindi ci credeva davvero, ma era così bravo e così giornalista che era in grado di cambiare l'idea senza cambiarla di fondo, senza cambiare ideologia, però cambiare idea sugli effetti reali di quella ideologia, ecco. Ecco Paolo, Terzani è scomparso recentemente, questo ci permette anche un po' di allacciare i fili della tua storia, anche della sua storia, perché mentre tu ti trovavi negli Stati Uniti dagli anni 90 al 2000, lui aveva deciso a 60 anni di trasferirsi in Himalaya e andare in pensione. Solo che scoppia la guerra del Golfo, lui ha l'occasione di ritornare a fare quello che, per cui più si sentiva portato, ecco, fare il cronista, il giornalista di guerra. Ma cosa pensava lui della guerra? Beh, non proprio, no. Lui da quel momento, come dice lui, si è messo in pensione, fa così. Però da quel momento non ha fatto più l'inviato di guerra, ha fatto quello che, avendo conosciuto tante guerre, conosco la storia, diceva, ecco, io conosco la storia, stava dentro la storia, ne ha viste tante, voleva parlare della guerra, voleva convincere le persone che proprio in quel momento, che proprio dopo l'attacco alle Torri Gemelle, fosse una follia rispondere con gli stessi metodi di guerra ad una guerra dichiarata da poveri, da disgraziati, da persone che rischiavano di diventare, come sono poi diventate, terroristi. Quindi comincia una sua battaglia personale contro la guerra. andando a parlarne, facendo le lettere di guerra, litigando contro Oriana Fallaci, che invece si scagliava in quel punto della sua vita in maniera un po' incosciente contro l'Islam, contro, diciamo, gli estremismi della religione islamica, prendendo una posizione molto forte, dicendo: se non lo facciamo ora, quando mai lo facciamo? Sembrano le battaglie delle donne, no? Se non ora, quando? Quando cominceremo a rinunciare alla guerra per ottenere la pace? Con la guerra otterremo solo la guerra. Mi sembra importante allora a questo punto lanciare un breve estratto dal documentario che hai fatto tu proprio su Tiziano Terzani, Tutti i colori di una vita Tiziano Terzani si racconta, di cui parleremo anche dopo, in cui Terzani risponde a questa domanda storicamente, ecco, sulla guerra. Ascoltiamolo. A quel tempo si credeva in qualcosa. Io credevo, per esempio, credevo che era giusto che la rivoluzione vincesse, che i Viet Cong, i comunisti a quel tempo, si prendessero questa città e ne facessero una capitale morale di un altro paese. In verità ti accorgi, tornando, che quella guerra non è servita a niente. C'è stata un'accumulazione di dolore, di sofferenza. Per gente come noi che ritorna, la senti questa, la senti nell'aria. Se tu pensi all'ammontare di sofferenza, miseria, morte, milioni, a chi è servito? Questa corsa verso il denaro, questo arricchirsi, è quello che sarebbe successo se non ci fosse stata la guerra. O, ancora peggio, se l'avessero vinta gli altri. Forse se l'avessero vinta gli altri, questo tipo di società sarebbe stata messa in piedi prima e probabilmente anche meglio. E rieccoci dopo aver ascoltato proprio dalle sue parole Tiziano Terzani, la sua voce, averlo visto. Facciamo un salto temporale adesso, andiamo al 2003. Lui torna in Italia, va nel suo paese di origine, nella sua regione di origine, la Toscana, e decide di ritirarsi perché capisce che è arrivato il momento, insomma, alla fine della sua vita. E si può dire, anzi te lo chiedo, possiamo dire, Paolo, che in qualche modo lui lascia un testimone a suo figlio? Sì, diciamo, gli lascia il testimone, fa un bilancio, decide che questo è il momento di fare un bilancio della sua vita. Lo sentiva, lui ha una chiarezza, una visione pazzesca, una serenità, sentendo che si stava avvicinando alla sua fine, comincia a pensare che deve regalare tutto questo a chi lo ha seguito da lontano, e quindi chiama Folco all'Orsina, in questa vallata dove è nato, dove sono nati anche i suoi figli, dove c'è ancora la sua casa, e gli racconta un sacco di cose. Sono bellissime le immagini di lui ormai vecchio, con la barba bianca, che racconta al figlio. Il figlio registra tutto e a questo punto decide anche, quando il papà muore, di regalarci a me e a Luciano Minerva questo materiale, perché non sapeva che farne, sapeva come farne un libro, non sapeva come farne un documentario, e quindi ci dà questo materiale e noi ci siamo messi lì per giorni, giorni, settimane, mesi, quasi un anno, per riguardare, rileggere, riascoltare, e poi lo abbiamo montato cercando tanto materiale visivo in giro, da destra e sinistra, in tutte le televisioni, cosette artigianali che ci regalava Folco e così via, ma tutto con le sue parole. E quindi quel documentario è una specie di autobiografia fatta direttamente da Terzani, che ha molta forza. Nel frattempo è uscito un film con Bruno Ganz, guardatevelo e guardate il documentario e ditemi se non è la stessa cosa, solo che da una parte c'è Bruno Ganz e dall'altra parte c'è Terzani. E allora guardiamolo insieme, questo documentario, mentre ci salutiamo. Grazie Paolo, ci grazie a voi domani. Davvero Nel modo più bello, raccontandolo, ricordandolo, Tiziano Terzani, Tutti i colori di una vita, Tiziano Terzani si racconta. A domani. Sono arrivato a destinazione, ho chiuso, ho concluso. Sono partito, come tutti i giovani, con un grande senso di voler cambiare il mondo, renderlo migliore, facendo tutte le cose che si pensa servono al mondo. E poi ti accorgi strada facendo che non vale niente, che la soluzione non è lì. Dov'è? A me pare di averla trovata, nel senso che se riesci a migliorare te stesso, a fare qualcosa con te stesso e a renderti conto dell'inutilità di tutto il resto, forse metti le basi per qualcosa di grande, che è, secondo me, inevitabile. l'evoluzione dell'uomo verso un piano superiore. E ora mi devo riposare. Sì, sì, ora sì. E siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata, vi annunciamo ciò che segue per la mezz'ora successiva. Abbiamo le pillole di Antigone con una puntata sul difensore civico e a seguire Naufragi, l'associazione Naufragi di Bologna, con questa rubrica intitolata Idee di Traverso. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com e come sempre vi salutiamo, vi abbracciamo, ci rivediamo domani. Un saluto da me, che sono Caterina, Nea Flacco, Diana Bota, Paola Leotti e Antonella Cortese. Ciao a tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.